Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi siamo pronti con il nostro sommario con Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Partiamo! I gesti e le attenzioni che fanno stare bene i tuoi occhi. Mal di testa, prova con il caffè. Allattamento, conta anche la posizione. C'è un bene che non apprezzo e che in ogni modo dobbiamo imparare a preservare e capitalizzare. La nostra salute, questa di essere benessere, è un messaggio con cui cerco di raggiungervi tutti i giorni. Ma oggi vorrei farvi pensare ad alcuni aspetti della nostra salute che trascuriamo anche inconsapevolmente più di altri. In particolare mi riferisco alla vista. Quasi sempre, dite la verità, noi ce ne occupiamo solo quando ci accorgiamo che c'è qualche problema. Invece, cari amici, la vista tra le funzioni del nostro corpo è proprio una di quelle che necessita di maggiori attenzioni preventive e gli organi che ne sono deputati, quindi i nostri occhi, devono ricevere una manutenzione attenta e continua per poter dare il meglio di sé. Di questo parleremo oggi qui ad Essere Benessere e quindi vi invito a mettervi in contatto con noi con il nostro numero verde sempre a vostra disposizione 800 24 0024. I messaggi 349 238 6666, le coordinate quindi per intervenire ve le ho date. Oggi invece voglio subito passare ad introdurre i miei ospiti. Saluto il dottor Guido Ripandelli, oculista presso l'Istituto di Ricovero e Cura Carattere Scientifico della Fondazione Bietti per l'oftalmologia di Roma. Buongiorno dottor Ripandelli e bentornato. Buongiorno, buongiorno signora, a lei e radioascoltatori. Abbiamo anche in linea il professor Carlo Maria Villani, primario oculista dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma e consulente della IAPB, che voi di Essere Benessere conoscete bene, l'Agenzia Internazionale Prevenzione per la Cecità. Professor Villani, benvenuto anche a lei. Grazie, saluti a tutti gli ascoltatori. Allora, vorrei tanto per cominciare mettere subito le nostre carte sul tavolo e provare a definire gli aspetti che funzionano da fattori di rischio e quelli che invece sono da includere tra i fattori di protezione. Insomma, vorrei capire quali sono le cose, gli aspetti che la nostra manutenzione deve tenere sotto controllo. Dottor Ripandelli, inizierei da lei affidandole i fattori di rischio. Ma possiamo suddividere generalmente, diciamo, fattori di rischio per l'occhio. Possono essere quelli ambientali o anche, diciamo, le abitudini di vita, che possono essere alimentari o altre cose, come generalmente anche per le altre parti del corpo. Nello specifico per l'occhio, però, come fattore di rischio, diciamo, ambientale, la luce solare può essere fonte, diciamo, di ossidazione, quindi di invecchiamento, come ad esempio la pelle. Certo. Invecchia con esposizione molto forte ai raggi solari, soprattutto d'estate, anche l'occhio può subire degli invecchiamenti, diciamo, a medio-lungo termine, come ad esempio l'insorgenza di una cataratta, che può essere più sviluppata in chi sta molto all'aria aperta, o anche fastidi più rapidi, sintomatici, che poi si risolvono presto, come magari delle infiammazioni dell'occhio, dei bruciori e delle situazioni che poi comunque con una terapia adeguata passano rapidamente. Quindi, diciamo, fattori ambientali, la luce solare sicuramente, fattori alimentari o comunque di abitudini di vita, il fumo di sigaretta, quello ovviamente è un noto ossidante, quindi è sicuramente dannoso anche per la circolazione retinica, per un invecchiamento della retina, l'ipertensione arteriosa, quindi comunque sia un'abitudine anche alimentare ricca, diciamo, di cibi troppo grassi, quindi colesterolo, tutto questo che lede un po' alla circolazione del corpo, fa male, diciamo, a tutto quanto il sistema circolatorio, va a comunque colpire anche la retina e quindi anche gli occhi. Professor Villani, veniamo invece con lei ai fattori di protezione. Oggi vogliamo soprattutto dare ai nostri ascoltatori delle indicazioni per il loro benessere visivo, quindi tante anche piccoli trucchetti, attenzioni, consigli. Allora, andiamo ai fattori di protezione. I fattori di protezione, soprattutto, come diceva il dottor Ripandelli, gli agenti solari, perciò naturalmente una protezione con occhiali da sole, e di questo se ne può parlare anche un po' più approfonditamente, nel senso che ci sono degli occhiali da sole semplicemente o ci sono anche degli occhiali da sole che possono essere selettivi per una certa gamma di raggi, cioè più per gli ultravioletti, per gli infrarossi, eccetera. Perciò naturalmente sono normalmente sufficienti degli occhiali da sole normali, con delle lenti naturalmente buone, che non diano deformazioni delle immagini, perché molto, molto spesso delle lenti non buone danno un pochino una diffrazione, un'alterazione delle immagini che stanca anche la vista, fa male anche alla vista, ma soprattutto fa stancare di più. Certo. E poi ci sono delle lenti viceversa che sono più selettive, che però vengono utilizzate di più quando ci siano delle patologie di base, non so, nella cataratta, nelle degenerazioni maculari, eccetera. Perciò direi che quello è il primo fattore. Altri fattori possono essere degli occhiali, se una persona va in piscina o va al mare, perciò quegli occhiali protettivi in maniera tale che l'acqua non venga a contatto con gli occhi, perché molto spesso, soprattutto nelle piscine, c'è il cloro, è un elemento che sicuramente fa arrossare gli occhi di più, certi mari dove c'è soprattutto una salinità maggiore o c'è l'acqua un po' più inquinata, naturalmente possono. E tra i fattori di protezione noi parleremo anche naturalmente di luce, parliamo anche di stile di vita e stile di utilizzo delle lenti a contatto, anche l'igiene, la corretta igiene, il corretto utilizzo di queste piccole protesine aiuta i nostri occhi a stare bene. Consigli e istruzioni per l'uso nel corso della trasmissione, ma io intanto invito quindi i nostri ascoltatori che vogliono saperne di più, che hanno un piccolo problema e vogliono trovare una soluzione, a chiamare il nostro numero verde. Ma dopo aver visto i fattori di rischio e protezione, vorrei, usando una metafora che uso spesso, che è un po' automobilistica, utilizzando i termini di manutenzione classici, e quindi il tagliando e il check-up. Brevemente, perché poi ci torneremo nel corso della nostra trasmissione, dottor Ripandelli, quando e come va fatto il tagliando alla nostra vista? Io consiglierei un po' a tutti quanti, anche al di là delle fasce di età, di fare un controllo completo della vista, del fondo dell'occhio, della pressione oculare soprattutto, quindi un esame completo di vista dall'oculista almeno una volta all'anno. Certo. Salvo poi casi più specifici, ma poi quello sarà l'oculista stesso a indicarlo a ogni paziente a seconda, diciamo, delle situazioni. Però una volta all'anno è consigliabile fare un esame completo. Allora, i nostri occhi, amici cari, sono proprio come noi, vanno protetti, amati, curati. Le parole chiave di questa puntata saranno luce, ne abbiamo già parlato in parte, igiene, alimentazione, stress e istruzione per l'uso di lenti e occhiali. 349-238-6666 se volete raggiungerci via SMS, 800-24-0024 se preferite chiamarci. Una mela al giorno. E noi scomodiamo ancora una volta le nonne per parlare di un rimedio popolare che trova sempre più conferme. Parliamo di caffè, un analgesico a portata di tazzina. Insomma, la famosa tazzulella svolge un'azione che può definirsi di tipo farmacologico, e infatti una delle componenti di molti farmaci contro il mal di testa è proprio la caffeina. Di tutto questo parliamo nel nostro spazio della mela al giorno con il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Professore, allora, caffeina, un aiuto a chi soffre di mal di testa, questo possiamo dirlo? Sì, è certamente un aiuto molto efficace. Ricordiamo che la caffeina non sta solo nel caffè, c'è nel cioccolato, c'è nel tè, e quindi sono sostanze che noi possiamo utilizzare nel corso della giornata senza accorgerci, in un certo senso. Vorrei dire una cosa: il caffè è lo psicofarmaco più diffuso al mondo. Gli statunitensi bevono più di noi, ma è straordinario pensare che i più grossi bevitori sono gli scandinavi, una media di 6 tazzine di caffè al giorno, al punto che tracce di caffeina sono trovate nelle acque del Mar Baltico. Poi il caffè, questo lo sanno bene i pazienti cefalalgici, è un farmaco ideale. Ideale perché si assorbe al 100%, raramente quando prendiamo un'aspirina l'assorbimento è così completo. Il secondo aspetto, il farmaco caffè, in questo caso, entra in funzione in 30 minuti, quindi molto rapido nella sua azione. E poi, vi ricordate quando ero piccoli, si diceva aspirina e Coca-Cola, e se ne parlava quasi di nascosto come una possibile mix? È vero, il caffè mette il turbo nella biodisponibilità degli altri farmaci, e per esempio con l'aspirina, che naturalmente è un farmaco antidolorifico, ne accresce quella che è chiamata area sotto la curva, quindi ne accresce la disponibilità e la sua efficacia. Professor Barbanti, noi stiamo parlando però di tazzine, non di caffettiere. Lei diceva che la caffeina non si trova solo nel caffè, ma molte in molte altre bevande, quindi il rischio di farsi scappare un po' la mano è molto facile. E voglio sottolineare questo aspetto perché il mal di testa può anche essere un sintomo dell'astinenza da caffè. Allora, quindi questo ci deve far capire che il caffè va bene, ma preso nelle giuste dose. Caffè inteso come caffeina. Professor Barbanti, quindi? Beh, quindi direi, essendo un farmaco gustoso, distinguiamo in due situazioni. Il caffè utile, quindi l'uso corretto, e il caffè inutile e quindi dannoso, un uso scorretto. Quando è corretto l'uso nel soggetto cefalalgico? Quando l'uso sia episodico. Se noi beviamo 10 caffè al giorno, non pensiamo di farci mandare via il mal di testa con una tazzina in più, riguarda piuttosto questo il bevitore sporadico. Ma proviamo a dare dei numeri. Il caffè ha delle proprietà analgesiche in sé. Quanto? Due caffè, o meglio un caffè doppio, forse ancora più carico, dimostrano l'efficacia nella emicrania e nella cefalea di tipo tensivo. Un singolo caffè, la dose qui diventa 75 mg, quello che facciamo a casa, è utile in una forma di cefalea molto bizzarra chiamata cefalea ipnica, che compare solo nel sonno e paradossalmente col caffè scompare. Invece vari caffè nella giornata sono scientificamente dimostrati essere utili nella cefalea da puntura lombare, quella che prende soggetti magari che abbiano fatto un'anestesia spinale. Per quale motivo il caffè funziona sull'emicrania? Perché è un vasocostrittore e perché per certi versi induce la veglia. Sappiamo che il soggetto emicranico è proprio quando lascia la tensione ed entra nel torpore, il sabato e la domenica, dopo uno stress, quando si rilassa, che ha il massimo rischio. Ma vediamo cosa succede quando invece il farmaco caffè viene usato male. Innanzitutto, quando è usato male? Beh, ormai la letteratura è concorde, sopra i 200 mg, cioè sopra i 3-4 caffè al giorno. E i numeri sono un po' inquietanti: chi prenda più di 3-4 caffè al giorno e sia emicranico, triplica il rischio di diventare un emicranico cronico, cioè quotidianamente affetto da attacchi. E il secondo aspetto è la cefalea da sospensione. Chiunque di noi, anche io che sto parlando e che sono in realtà un cefalalgico, beva 3 caffè al giorno, quindi una quantità normalissima, da almeno 2 settimane lo blocchi nell'assunzione, avrà un'enorme possibilità di sviluppare entro le 24 ore un mal di testa che scomparirà solo assumendo una tazzina. Ed ecco qui il circolo vizioso. Questo perché? Perché a forza di assumerlo c'è una vasodilatazione da rimbalzo. E poi vorrei concludere con una piccola notazione. I vizi non vengono mai da soli e un forte bevitore di caffè assomma molte volte anche un uso eccessivo di alcolici o il fumo, che sono a loro volta fattori di rischio per cronicizzare il mal di testa. Professor Barbanti, io la ringrazio e la saluto. Fiorenzo da Bergamo ci manda un messaggio dicendo: cefalea, caffè sì, ma con il limone. Lo sapevate già, ma perché non dirlo? Perché oggi ci siamo focalizzati, caro Fiorenzo, sulla caffeina. Torneremo a parlarne. Grazie al professor Barbanti e grazie a Fiorenzo che ci ha mandato. Arrivederci. Buongiorno, un SMS. Pronto soccorso. Oggi parliamo di vista e lo facciamo insieme al professor Carlo Maria Villani e al dottor Ripandelli. Vogliamo scrivere con voi una sorta di decalogo del benessere visivo. Arrivano già numerosi messaggi e molte mail. Voglio leggervi il messaggio di Luigi da Parma, che ci scrive: finalmente è arrivato il sole, lo aspettavamo da tanto, solo che io sono molto sensibile alla luce solare e i miei occhi sono arrossati e lacrimanti. Sembra che gli occhiali da sole non mi proteggano. Allora, professor Villani, lei ha sottolineato in apertura l'importanza di proteggere gli occhiali, i nostri occhi dalla luce solare e di scegliere anche gli occhiali giusti. Devono essere occhiali di buona qualità, ma quando, nonostante gli occhiali da sole, i nostri occhi lacrimano, facciamo fatica a tenere gli occhi bene aperti, quale può essere la causa? Che cosa si può fare? Si cambiano gli occhiali? Vanno escluse delle patologie che possono creare fotofobia. E ci sono svariatissime patologie, dicevamo della cataratta prima, di piccole cicatrici che possono esserci sulla cornea, dobbiamo parlare di opacità che possono essere nel vitreo, che è diciamo un gel che sta all'interno dell'occhio, parliamo di iniziali alterazioni anche maculopatiche del paziente, e tutto questo può creare delle fotofobie, perciò la prima cosa che va escluso è che ci sia una patologia all'atere che dia questa fotofobia. Perché, professor Villani, possiamo mandare questo messaggio agli amici che ci stanno seguendo da casa? Cioè, è normale avere un po' di fastidio quando la luce del sole diventa particolarmente forte, però il disagio dovrebbe passare mettendo gli occhiali. Se invece il problema persiste, come si dice sempre, è opportuno consultare l'oculista. Esattamente, esattamente. E escluse delle patologie, come dicevamo prima, poi si possono anche utilizzare questi occhiali che sono più selettivi e che possono di più darci comfort migliore. E a questo proposito Silvia, dottor Ripandelli, ci chiede ma gli occhiali che si oscurano al sole e si schiariscono dentro vanno bene? Vanno benissimo, sono delle lenti che si chiamano fotocromatiche, e io generalmente lascio sempre molto la scelta libera al paziente, sì. In quanto la lente fotocromatica non è mai una lente né troppo scura, quindi non ha un filtraggio per luci intense, parliamo una luce come può essere nel pieno dell'estate o comunque in alta montagna eccetera, né è mai una lente che diventa chiarissima, perfettamente bianca, quindi è sempre un po' un ibrido. Però ci sono pazienti che si trovano benissimo con questa soluzione di lenti, altri pazienti che viceversa non hanno poi un giovamento, ma parliamo magari proprio di quelle persone, come dicevamo con il professor Villani, che hanno delle particolari sensibilità alla luce solare, quindi fotofobia intensa. In questi casi io raccomanderei più una lente decisamente più scura che non una lente fotocromatica. Allora passiamo dagli occhiali da sole agli occhialini per nuotare. Alessandra ci scrive: credo di essere allergica all'acqua della piscina, uso gli occhialini ma ogni giorno dopo aver nuotato circa un'ora i miei occhi vanno in fiamme, cosa si può fare? Professor Villani. Naturalmente portare questi occhialini evitando che l'acqua della piscina venga a contatto con la mucosa della congiuntiva. E queste naturalmente, più che un fatto allergizzante la piscina, sono sostanze chimiche che in pratica danno questi arrossamenti soprattutto su una mucosa così delicata come la congiuntiva, perciò gli occhialini possono essere una buonissima difesa. Non solo, gli occhialini possono anche essere correttivi per alcuni difetti di vista, soprattutto i miopi elevati che senza occhiali fanno fatica anche a vedere. Dottor Ripandelli, ma se ho gli occhi dopo la piscina, come ci scriveva Alessandra, che diventano infuocati, bruciano le lacrime, non posso utilizzare un collirio che mi dia un po' di sollievo? E come faccio a sceglierlo? Sì, si possono usare i colliri. Tenderei... Ho sentito la sua pausa, perché quando si parla di colliri con voi oculisti, giustamente vi fermate perché il discorso diventa lungo. In genere si tende sempre forse ad abusare troppo dei colliri con i vasocostrittori, che hanno ovviamente l'efficacia immediata di sbiancare l'occhio, che però a lungo termine, come accennava anche lei prima, possono rivelarsi un'arma a doppio taglio. Quindi avere un effetto di rimbalzo, per cui bisogna usarne sempre di più per avere un effetto sbiancante. Tenderei a limitare l'uso più possibile di colliri con vasocostrittori, affidandomi di più per queste irritazioni semplici, quindi non infettive, certo, o congiuntivite, a semplici lacrime artificiali, lubrificanti dell'occhio o colliri vegetali con estratti naturali. Perfetto, e lacrime artificiali invece possono in qualche modo aiutarci? Glielo scrivo perché ci scrive anche Fiorenzo che dice: collirio, al bisogno uso qualche goccia di soluzione fisiologica, in mancanza di questo sciolgo del sale in un po' di acqua fatta bollire. Un altro ascoltatore, Marco, ci scrive invece che usa le lacrime artificiali, così diamo le indicazioni su tutto quello che c'è da aggiungere per far funzionare bene i nostri occhi. Dottor Ripandelli. Assolutamente, vanno tutti benissimo, perché L'acqua mischiata al sale è una soluzione salina fisiologica fatta in casa. Le lacrime artificiali svolgono la stessa funzione, riequilibrando soprattutto magari quei pazienti che hanno problemi di secchezza oculare o anche i portatori di lenti a contatto, una situazione magari di film lacrimale che si squilibra o che è precaria. Quindi non c'è generalmente un limite all'uso o al dosaggio di queste lacrime, perché al giorno d'oggi sono tutte ottime, sono senza conservanti, per cui non hanno assolutamente effetti collaterali. Abbiamo Guido che ci aspettava già da prima dei mercati insieme a Maria Teresa, si sono aggiunti Celestina e Maria Grazia. Adesso via le telefonate e per ciascuno di voi un consiglio che spero sia utile anche agli ascoltatori che ci stanno seguendo. Guido, buongiorno. Ribuongiorno. Sì, salve. Io sono Guido da Torino, 55 anni. Essendo di carnagione chiara, mi dà molto fastidio la luce diffusa, per cui quando c'è quelle giornate col cielo coperti vado in giro con gli occhiali da sole. Sì. Mi chiedevo se era normale o se magari potesse essere un sintomo strano, insomma. Allora, professor Villani, l'abbiamo già in parte risposto a Guido, però Guido è più preciso. Ci dice che gli dà fastidio quella luce quando c'è il cielo velato e c'è questa luce veramente che ti abbaglia un po'. Infatti usa gli occhiali da sole, giustamente come lei ha detto in apertura. Ma a Guido che cosa possiamo consigliare? Certamente quella luce così diffusa e abbastanza forte può dare fastidio. Certamente, e come dicevamo prima, io consiglierei Guido comunque di fare una visita oculistica per vedere che non ci siano patologie, perché questo tipo di luce può dare fastidio in alcune patologie. Andiamo. Senz'altro una visita. Una visitina. Maria Teresa invece ci chiama dalla provincia di Milano. Sì. Eccola. Innanzitutto grazie per come lei conduce questo programma, perché io sinceramente da quando c'è lei che conduce questo programma non ne sento altri, perché lei riesce a rendere anche soft problemi di una certa importanza, non sottovalutandoli, però facendoceli vedere sotto una luce più chiara, non lo so. Grazie Maria Teresa, grazie a lei. Allora, Maria Teresa, andiamo con la domanda. Porto lenti a contatto da 40 anni, sì. E grossi problemi non ne ho mai avuti, seguo tutto quello che viene detto, faccio i controlli come dicevate prima annualmente per il fondo dell'occhio, la pressione. L'ultimo controllo che ho fatto a novembre dello scorso anno, il medico che mi ha fatto il controllo mi dice vada subito su un reparto cataratta, vado su un reparto e iniziano tutti quegli esami di routine. Sì. Poi quando era quasi il momento di fare l'intervento mi dicono ma però lei ha una forte miopia. E quindi io allora ho cominciato a fare domande, ma c'è qualcosa che non va? No, non c'è niente che non va, però ma sì sì no, si può fare, al che mi sono sentita sinceramente mi sono venuti dei dubbi, allora sono andata a farmi fare un'altra visita. E certo, si finisce sempre così, poi più pareri si sentono più la confusione aumenta. E cosa le hanno detto, Maria Teresa? Curata. E mi hanno detto che c'è una leggera cataratta, ma che non è assolutamente per il momento da operare. Quindi io dico, queste cose però ti lasciano un po', dottor Ripandelli, professor Villani, ci lasciano un pochino, perché uno dice sento questo secondo parere, però se avesse avuto ragione il primo. Dato che Maria Teresa ha sentito due oculisti, io vi metto un po' a confronto. Dottor Ripandelli. Io affiderei sempre la decisione un po' sicuramente al buon senso del medico e anche al disagio che il paziente può avvertire di tipo visivo. Sì. La cataratta non è mai un fatto acuto o urgente, salvo condizioni particolarissime, qui parliamo di altre situazioni legate ad altre patologie dell'occhio, per cui il paziente avverte un calo di vista che può essere graduale. Ora, non dobbiamo mai sottovalutare questo fatto, la cataratta è un intervento chirurgico e come tale non va mai banalizzato. Ci sono pazienti purtroppo che capitano, non so, l'amico che dice ho fatto l'intervento, è semplicissimo, eccetera, e questo non va mai considerato perché è deleterio. Certo. Quindi il buon senso ci dice se il paziente ha un calo di vista, ma ancora una vista accettabile, con tutto che c'è un'opacità magari iniziale, cioè parliamo magari di una vista che c'ha ancora 8, 9 decimi, anche fossero 7 decimi, a mio avviso se non ci sono delle condizioni particolari e cristallino si può ancora aspettare. Senza allarmismi, il paziente viene avvertito che ha un inizio di cataratta, una cataratta in evoluzione, ma è assolutamente individuale la decisione di quando operare la cataratta. Professor Villani, aggiunga il suo parere e poi io ho una domanda aggiuntiva per lei. Direi senza senz'altro sì, nel senso che secondo il mio parere fino a un certo punto dell'evoluzione della cataratta deve essere soprattutto il paziente a decidere quando operarsi. Quindi sarà anche Maria Teresa a decidere. Ma professor Villani, mi scusi, c'è una stagione magari più indicata di altri per eseguire questo intervento? Adesso siamo in estate, sottoporsi prima in estate a questo intervento può avere dei problemi? Perché adesso c'è tanta luce, funziona così? Preferisco non operare di cataratta quando c'è quel caldo importante, i 40 gradi all'ombra cosiddetti, sì. Per cui evitare quei periodi di gran caldo, per il resto si può operare. Insomma, non lo facciamo dell'anno. Quando proprio l'estate è al culmine, è bollente, ma se no si può fare. Celestino invece ci chiama da Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno professor Villani. Il dottor Ripandelli non lo saluta, non si e sa. Anche il dottor Ripandelli. Ma sì, scusi. Dai, anche all'amico un saluto. Celestino, benvenuto anche a lei. A tutti, ecco. Buongiorno, grazie. Bene, allora. E quindi ho 47 anni, da circa 7 anni soffro di secchezza oculare. Dopo aver fatto esami che escludono patologie reumatiche o la sindrome di Sjögren, da quest'inverno, oltre i problemi di bruciore e rossore, ci sono anche i dolori, purtroppo. La primavera certo non mi aiuta anche perché sono allergico. Ecco. Ho qua davanti a me gel, spray, delle gocce che mi aiutano, ma certo dopo un paio di giorni che uso l'antibiotico diventa subito l'occhio rosso da una parte e dall'altra. Grazie. Grazie. Allora, professor Villani, Celestino proprio si è rivolto a lei. Io ho dovuto riprenderlo un po' per i capelli per ricordargli che ci siamo anche io e il dottor Ripandelli. Quindi a lei la risposta per Celestino, che mi sembra un caso abbastanza complicato, soprattutto perché è da tempo che Celestino si confronta con questo problema che, oltre adesso al rossore, è diventato anche doloroso. Che si fa? Senta, ci sono delle alterazioni della lacrimazione che possono essere quantitative o qualitative, sì, delle lacrime. Perciò questo un pochino è possibile stabilirlo. Come si fa? C'è un esame, bisogna, professore? Sì, fare degli esami quantitativi delle lacrime, perché se quantitativamente le lacrime sono sufficienti, allora naturalmente c'è più da rivolgersi verso la qualità. Oggi ci sono dei colliri, dei prodotti che correggono più o meno fortemente questo, nel senso ci sono dei prodotti che poi durano di più all'interno dell'occhio nel tempo, dei prodotti che durano di meno ma migliorano la qualità delle lacrime, cioè la tensione superficiale soprattutto delle lacrime. Per cui ecco, bisogna un pochino poi provare quali sono le lacrime artificiali che possono risolvere di più il problema Celestino. Quindi dopo aver fatto l'analisi delle sue lacrime, Celestino capirà se sono troppo poche, allora ci si indirizzerà verso un problema quantitativo, oppure se le lacrime hanno una composizione che non va bene per Celestino, e quindi si aggiusterà questa composizione utilizzando delle lacrime artificiali ad hoc. 824 0024, Maria Grazia da Roma è in linea con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta, buongiorno ai suoi ospiti, professor Villani e professor Ripandelli, buongiorno anche ai radioascoltatori che come me vi stanno ascoltando e vi ringraziano di questi consigli utili che ci state dando. Dunque il consiglio, cioè la domanda che io vi chiedo non è tanto per me quanto per le mie figlie. Sì. Ho due bambine piccolissime di 6 mesi e allora mi chiedevo, adesso che ci stiamo per trasferire al mare, come comportarmi con i loro occhietti, nel senso posso sempre con cautela esporle al sole oppure non so, devo farlo tenendo presente appunto che gli occhi sono così sensibili tanto da doverli coprire anche a loro? Grazie per la bella domanda, Maria Grazia, così diamo un'indicazione alle mamme che ci ascoltano. Dottor Ripandelli, a lei le bambine 6 mesi davvero piccine di Maria Grazia che tra poco partiranno per il mare. Sì, innanzitutto faccio gli auguri alla signora per le gemelle, per la neomamma. Sì. E tranquillizzerei sicuramente la signora Maria Grazia, nel senso che i bambini sì, vanno protetti come tutti quanti, ma soprattutto di più. senza diciamo eccedere in allarmismi facili, ma comunque usando delle norme di buon senso, proteggere ovviamente, schermare gli occhi anche con dei cappellini, con le visiere, evitare l'esposizione alle luci forti, quindi diciamo verso quando è l'ora proprio calda, mezzogiorno, le due, quando comunque anche la luce solare fa male agli altri tessuti del corpo, quindi alla pelle, senza poi ovviamente ecco avere particolari fobie nel sole, che tutto sommato con queste precauzioni seguite e attenzioni è pur sempre diciamo un amico. Allora, buon mare Maria, grazie alle sue gemelle. E intanto, a proposito di occhiali da sole, Reni ci scrive: professor Villani, occhiali da sole neri o marroni? Il colore fa differenza? Io direi che gli occhiali da sole marroni sono sempre i migliori. Anche perché sono così eleganti, vanno su tutto. Questo lo aggiungo io. Mario da Bari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Mario. Eccomi, buongiorno. Eccola lei. Volevo porre una domanda per quanto riguarda specialmente un problema sulla guida. Io sono molto in macchina e volevo sapere le lenti normali da sole rispetto a quelle polarizzate. Sì. Se offrono dei vantaggi effettivi oppure no, ecco. Sì, ma lei come si trova? Io ora sono appunto in macchina. No, ho capito, ma come si trova con queste lenti che sta usando? Avverte magari, non so, stanchezza oppure... perché? Diciamo che specialmente durante le ore sul tramonto, quando riflessi, comunque ho un po' di difficoltà, ecco. Allora, dottor Ripandelli, cosa suggerirebbe a Mario e a tutte le persone che stanno tanto tempo in macchina e quindi devono utilizzare gli occhiali da sole? Tante volte devono, no? C'è questa, quando si entra in galleria si tolgono, poi si rimettono, insomma si armeggia parecchio con gli occhiali durante la guida, sempre tenendo le mani sul volante. Dottore, lenti polarizzate o no? Sì, lenti polarizzate è una soluzione. Anche in questo caso c'è chi magari ha un adattamento al buio più rapido, sì. Ormai le gallerie proprio per evitare questi fattori di rischio sono illuminate a giorno quasi, per cui non si ha più quella differenza, sì, buio, drastica, pesto, buio, certo. Luce, però in ogni caso una soluzione pratica, magari non proprio esteticamente bellissima, potrebbero essere le clip, diciamo, sì. Con delle lenti da sole applicate sopra l'occhiale chiaro, sì. Che ovviamente in maniera molto rapida uno alza, diciamo, quando tratta di guidare, quando si tratta di guidare in ambienti più bui. Le lenti fotocromatiche, per esempio, come dicevamo prima, sono le lenti che si schiariscono e si scuriscono, impiegano qualche secondo, quindi mi viene da dire che la cosa più immediata è usare queste clip che si alzano. Meglio un clip, si usavano una volta, adesso sono andate un po', non li vedo più tanto in giro, ma lei ha ragione, dottor Ripandelli, dovrebbero essere molto comodi. È una cosa pratica, ecco. Cioè una cosa pratica, ma noi oggi vogliamo dare tante indicazioni pratiche date da voi che gli occhi li conoscete bene per coniugare salute e praticità. Renza, buongiorno dalla provincia di Novara. Buongiorno signora Nicoletta. Grazie di avermi chiamato. Bene. Ascolti, avevo bisogno di questo consiglio, non per me ma per mio figlio, per la verità. Dunque, lavora molto al computer, praticamente il suo lavoro precipuo è questo. Qualche tempo fa ha avuto una congiuntivite, è andato dall'oculista, sembrava risolto, invece ha ricominciato con bruciore agli occhi. Adesso è ritornato, gli ha dato un collirio che però non gli ha risolto il problema. Ecco. Ecco, volevo sentire dai suoi esperti. Professor Villani, ce la fa ad aiutare Renza? Ma io direi che il computer dare delle congiuntiviti non può farlo, sì. Può far stancare molto e soprattutto il computer mette in evidenza anche modestissimi difetti di vista di cui non ci accorgeremmo se non lavorassimo magari 4, 5 ore, 6 ore consecutive al computer, e questo ce li mette in evidenza perché ci fa stancare anche un piccolissimo astigmatismo, eccetera. Direi che le congiuntiviti però non hanno a che fare con il computer. Un'attinenza. Più che altro può succedere che se ci sono dei motivi di stanchezza, ci possono essere degli arrossamenti degli occhi che però non sono delle congiuntiviti di natura batterica o di natura irritativa, eccetera. Capito? Quindi il Renza cosa può suggerire a suo figlio? Al computer ci deve stare, tranquillizzarlo che non è il computer che porta la congiuntivite, ma un oculista deve essere informato che il collirio che ha prescritto non produce effetto. Questa è un po' la morale della storia. Esattamente. Allora, cioè che non abbia un piccolo difetto di vista. magari un piccolo difetto di vista. Allora, io saluto il dottor Ripandelli, che ringrazio in modo particolare, e naturalmente il professor Carlo Maria Villani, che ci hanno condotto in questa nostra trasmissione. Spero di sentirvi presto. Buona vista, allora. Ringraziamo. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. La pillola di chiusura di oggi è dedicata alle mamme che allattano. Care mamme, allattare è un gesto semplice, naturale e soprattutto non deve provocare dolore. Se ciò accade, cercate la causa, e per aiutarvi nella ricerca ho chiesto aiuto al dottor Riccardo D'Avanzo, neonatologo all'Istituto per l'Infanzia di Trieste. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo proprio pochi minuti, consigli mirati. Molte mamme resistono e, sopportando dolori anche importanti, il capezzolo si taglia, la suzione diventa un inferno. Le cause possono essere diverse. Una semplice, ci si arriva subito, è la posizione del bambino. Forse lo attacchiamo male. Dottor D'Avanzo, come si attacca un bambino? Il bambino dovrebbe avere la bocca ben aperta e prendere in bocca non solo il capezzolo, che ai fini dell'allattamento serve per orientare il bambino, non per ciucciare. Quindi deve prendere in bocca non solo il capezzolo, ma anche una porzione di mammella, quindi del tessuto che c'è sotto l'areola, cioè la parte pigmentata più scura. In questa maniera il bambino riesce ad attaccarsi e a drenare, non facendo male o riducendo al minimo il dolore che ci può essere nei primi giorni. Però se la mamma sente dolore, non deve accettare automaticamente questo dolore come il necessario scotto per, diciamo, allattare, per avviare l'allattamento. Deve chiedersi se il bambino è attaccato. Purtroppo le mamme vedono bambini che usano il ciuccio, che fa parte, diciamo, della nostra cultura, e delle volte viene usato. Il ciuccio viene succhiato naturalmente in punta, ma il bambino attaccato al seno non deve attaccarsi, come dire, all'originale a cui il ciuccio fa riferimento. Insomma, il capezzolo non è un ciuccio, bisogna attaccare il bambino bene. Dottor D'Avanzo, noi torneremo ad occuparci di mamme che allattano, i problemi possono essere diversi, vogliamo aiutare le mamme a non avere dolore, a non sentirsi in colpa, soprattutto se l'allattamento diventa qualcosa di problematico. Intanto, dottore, io la saluto e la ringrazio per essere stato con noi, il tempo a mia disposizione è terminato, quindi grazie al dottor D'Avanzo per essere stato con noi. Provate, ricordatevi mamme che il capezzolo non è un ciuccio. Io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11. Dottore, buona giornata. Arrivederci. Radio 24. La passione si sente.